Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. No! Non farti più vedere! Non è come pensi, Giulia. Ah no? Che cosa credi che pensi, Thomas? Ti ha mandato a cercarmi per convincermi a lasciarmi rinchiudere perché poi lui possa buttare la chiave! Mi ha solo chiesto di aiutarlo. Io ti stavo aprendo il mio cuore e tu mi hai mentito! Mi hai mentito! Ipocrita, fuori di qui, vattene! Ci siamo? Ci siamo, ragazzi! Ragazzacci, buongiorno, buongiorno a tutti. No, io mai avevo il viaggio per andare a Turin. Solo stato qui a Roma perché lui è stato qui. Vabbè, mi ha detto appena arrivato: guarda Manuel, abbiamo questa offerta che è buona, che anche a me mi piace. E gli ho detto: dai, andiamo avanti. E così abbiamo firmato al giorno seguente. Tu 4 giorni fa hai fatto un tweet tornando dalle vacanze in cui hai scritto: le vacanze sono terminate, spero si avveri quello che desidero. Ti riferivi alla Roma? Non lo so, come ho detto sono arrivato tra 2 o 3 giorni a Italia. Mi aspettava il mio procuratore e lui mi ha detto: guarda, abbiamo questo, loro sono... hanno fatto la trasferenza e niente, io volevo venire qui, mi piaceva anche, e allora diciamo che grazie a Dio sono una squadra bellissima. Mi viene in mente un film, Sesso, Bugie e Videotape. 800240024. Ah, buongiorno a tutti, Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattone in redazione. Giorni delle bugie. Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti. I turbe. Volevo venire alla Roma, mai pensato di andare a Torino, eccetera, eccetera, eccetera. Fa parte del gioco, ma ho l'impressione che, e non abbiamo ancora parlato insieme, non muoio dalla voglia di farlo, grosse bugie girino anche intorno alla Juventus, a Conte, al terremoto di mezza estate. Diciamo che vincere prima di tutto è difficile, comporta tanta fatica ovunque tu ti possa trovare. È inevitabile che quando sei in una società così prestigiosa come la Juventus, che vanta una tradizione di vittorie così importanti, c'è l'obbligo della vittoria, e forse può essere un po' più faticoso, no? Rispetto ad altre parti. Però chi ha dimostrato di essere un vincente sopporta benissimo la fatica e le pressioni che ne consegue. C'è stato un percorso in cui ho maturato delle percezioni, delle sensazioni che poi mi hanno comunque portato a questa decisione. Allora, io credo che la vicenda potesse essere gestita in un altro modo. Credo che un addio a fine stagione sarebbe stato fisiologico. Non mi sembra che tutto torni in questa vicenda di Conte. Pierluigi Pardo, ciao. Buongiorno. Come stai? Va? Bene, bene. Tutto bene? Oggi sto al mare, t'ho fregato. Tu sei tornato e io... Ma io sto bene qui, mi diverto un sacco. Io pure sto bene. Almeno possiamo cristallizzare questa situazione. Sì, possiamo stare così, dai. Tra l'altro ti sento in maniera perfetta, è festa, c'è il sole, è estate. Conte è andato via dalla Juventus, andrà allenare la nazionale. Allegri è arrivato alla Juventus. Sì, secondo me sì. Sono curioso di sapere qual è il peso della vicenda Prandelli nella decisione di Conte, perché è tutto molto bizzarro, no? Il giorno di quel tweet, stagione 2014-2015, allenatore della Juventus Antonio Conte. Però attenzione, quel tweet era in realtà la rappresentazione classica, e qualcosa non andava, nel senso, quello lì è un tweet della società che si riferiva a una situazione di fatto che c'è, sì, un contratto in essere che non era discutibile. Guarda, io ti dico la verità, capisco, è la notizia dell'estate e capisco pure la rabbia, la preoccupazione dei tifosi, i punti interrogativi, ma insomma qui stiamo parlando innanzitutto di dirigenti da una parte e di un allenatore che negli ultimi anni hanno vinto tutto, quindi non sono sprovveduti da una parte e dall'altra. Sicuramente c'è stato a un certo punto una incompatibilità e sicuramente c'è stato un non allineamento sul mercato. Sì. E probabilmente di fronte a questo allineamento Conte ha deciso che più di quello che ha fatto in questi anni non riusciva a fare. Mare, poi che poi società, il confine con il pretestuoso è molto labile. Vabbè, però voglio dire, comunque sa, Conte guadagnava credo alla Juve più di quello che eventualmente guadagnerebbe in nazionale. Questo sicuro. Secondo me è una forma, guarda, secondo me non è un tradimento, è una forma di onestà intellettuale quella di Conte. Alla fine, nel momento nel quale ti rendi conto che non ce la fai, piuttosto che stare lì a prendere lo stipendio e rischiare di rovinare 3 anni di stati bellissimi, fai una scelta di questo tipo. Al tempo stesso, ti dico, la società non può essere biasimata. Nel momento nel quale viene fatta, viene presa questa decisione, ma chi prendi? Prendi o Allegri o Mancini? Allora, possiamo discutere tutta la vita se sia meglio Allegri o Mancini? Io la risposta non ce l'ho. Perché sono due allenatori bravi tutti e due. Nemmeno io. Hanno vinto qualche volta non hanno vinto, non sono infallibili, non sono perfetti, ma non sono nemmeno scarsi. Ecco, io sento, ho sentito in questi giorni dei commenti su Allegri che sono ridicoli. Ho sentito dei commenti su Marotta che sono ridicoli. Sì, ma Pier, ma fanno parte dell'iconografia classica della rabbia dei tifosi. Allegri è l'allenatore del Milan, l'allenatore del gol di Montari, l'allenatore di mille polemiche, quindi tutto questo fa parte per una frazione della tifoseria dell'iconografia classica. Senti, abbiamo il traffico, stai lì che poi parliamo. 800 24 00 24, missione di oggi: trovare uno juventino contento per come si è sviluppata la vicenda. 800 24 00 24, strade. Quando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro, non puoi pensare di mangiare con 10 euro. Tutti convocati. Aspetta, è difficile, dai. E agghiacciate che è una capra respiratoria. Pensi che il calcio possa essere rotondo? Lo vedo benissimo, benissimo, perché è un vincente, può portare tante cose alla squadra, alla squadra nazionale. Che tutti sospettino che c'è qualcosa sotto. In Italia in questo momento c'è una panchina vacante molto prestigiosa, è quella della nazionale. Questa per lei a questo punto è una possibilità? Guarda, in questo momento io penso al presente, alla decisione presa e maturata, ecco. È agghiacciante quello che dicono. Ti piacerebbe, Gigi, ritrovare Antonio Conte, allenatore della nazionale? Beh, sicuramente non mi sorprende la vostra fervida fantasia, anzi mi fa sorridere, perché giustamente vuol dire che sapete fare molto bene il vostro lavoro. Però io penso, avendo visto anche il video del mister, che il mister non stesse pensando al futuro. Chapeau. Vabbè, vostra fervida fantasia neanche tanto, caro Gigi Buffon. Ci ha raggiunto Guido Vaciago, Pierluigi. Guido Vaciago di Tutto Sport, ciao. Ciao, ciao Pierluigi. Ciao. Ciao. Quello che la mia domanda è questa, vediamo se riuscite a farmi capire, Pardo e Vaciago. Qual è stato il peso della vicenda Prandelli nella decisione di Conte? Zero. Zero. Zero. È un'opportunità per Conte adesso, quella della nazionale, ma non credo che lui abbia pensato al fatto che c'era la panchina azzurra libera e poi a quel punto si sia dimesso. Non credo che siano due vicende assolutamente separate, che il destino potrebbe incrociare, ma assolutamente non precalcolate. Pierluigi? Credo che il sogno di Conte sia una grande panchina all'estero. Credo che lui in questi anni abbia anche lavorato su lingue straniere, su sull'aggiornamento professionale, perché e questa secondo me è una conferma della sua juventinità. Io quando ho letto la dichiarazione di Galliani, la dichiarazione alla quale ovviamente credo, perché Galliani dice che è stato vicino al Milan, vuol dire che il Milan era interessato a lui, e questo non mi sorprende, però poi alla fine tutti quei fatti, se qualcuno mi spiega perché questa trattativa poi non è andata in porto, visto che era così vicino, allora questo discorso ha un senso. Invece secondo me questo discorso non ce l'ha, perché comunque poi alla fine se veramente ci fosse stato questo interesse, le cose si sarebbero fatte. E invece non si sono fatte perché Conte è molto juventino, perché in questo momento soprattutto, il futuro magari lo so, perché tra anni le cose cambiano, ma oggi secondo me non è assolutamente interessato a un'altra panchina italiana. La nazionale secondo me è una cosa sulla quale lo si potrebbe convincere. Sì. Perché credo, anzi ribadisco, questa campagna al terzo giorno consecutivo lo si dovrebbe convincere, perché certo, in un momento certo, come questo di difficoltà del nostro calcio, insomma. Però secondo me lui, per convincerlo, al di là del giusto compenso che fa parte della vita di un professionista, ma che secondo me non è la questione, secondo me bisogna convincerlo sui progetti. Cioè, Conte ha dimostrato di essere in questi anni un allenatore, uno che fa... Vi ricordate quando si lamentava dello scarso rapporto con la nazionale? Se ne lamentava da allenatore della Juve, no? Il discorso degli infortunati, che qua nessuno ci viene a vedere. Ecco, secondo me, voglio pensare un po' per coerenza, un po' perché veramente lui è fatto così, se accettasse mai questo incarico farebbe il commissario tecnico, viaggiando continuamente in giro per la società, andando a verificare i metodi di allenamento, cioè con un rapporto molto più stretto, perché lui questa cosa l'allenatore della Juve l'ha sempre denunciata, l'ha sempre sottolineata. Sì. Sì. Non penso che sia il suo pensiero, penso che forse se non è lo 0% è il 5%, cioè comunque zero, se ha lasciato la Juve è stato per altri motivi. Però adesso io fossi il presidente federale, che sarà Tavecchio, Tavecchio, che il quale ha dichiarato Conte al profilo giusto, l'ha dichiarato oggi al profilo giusto per essere il nuovo CT, uno che ha vinto quello che ha vinto lui, lo è sicuramente, in Italia non c'è solo lui, eccetera eccetera, però queste le parole l'alternativa del... chiaramente l'ideale sarebbe Ancelotti, ma Ancelotti al Real Madrid, quelli che abbiamo visto in Italia in questi anni, Conte insomma è l'unico che ha vinto. E faccio anche notare ai tra Juve disperati e depressi che nella prossima Serie A ci sarà un solo allenatore che ha già vinto il campionato di Serie A, che si chiama Massimiliano Allegri, sì, per cui prima di considerarlo l'ultimo dei bolliti, ecco, sì, ma sai, non è una questione neanche di valore assoluto di chi va ad allenare la Juventus, è una questione di pedigree, di passato, di pregresso, di certe battaglie, che è una questione che avrebbe riguardato anche Mancini di sicuro. Però ragazzi, io ancora continuo a pensare, Conte, il sogno di Conte... Mi concedete una banalità? Sì, una certamente, banalità, questa mi rendo conto, la sto perdendo. Conte è un allenatore da squadra di club, non da nazionale. Io credo che uno che abbia la maniacalità del lavoro quotidiano, come l'ha avuta lui in questi 3 anni, io l'ho visto da vicino, è un lavoro quotidiano che è pazzesco, mostruoso, fatto di doppi allenamenti tutti i giorni, fatto di un lavoro sui dettagli, sui particolari, possa letteralmente impazzire alla guida della nazionale. Fine della banalità. Posso dirti una cosa uguale e contraria? Sì, dimmi. In questo mondiale, dove alla fine secondo me ci siamo divertiti molto, le partite sono state belle, ma non è che ci sia stato un livello di organizzazione delle squadre mostruoso. Cioè, io una squadra che arriva in semifinale e prende 7 gol come il Brasile, non ho mai visto, forse nell'82 Ungheria e El Salvador, qualcosa del genere. Cioè, secondo me con un pizzico in più di organizzazione e con un po' in più, non è che vinciamo il mondiale, ma potevamo andare secondo me molto più avanti. Sì, allora adesso, queste sono caratteristiche che Conte ha. Adesso vi faccio sentire cosa ha detto Ferrara, che più o meno sono le stesse parole di Vaciago, e poi vi dico una cosa anch'io. Però secondo me Antonio ha voglia di allenare e ha bisogno, per il suo modo di intendere, anche di avere sempre sott'occhio i propri ragazzi, i propri giocatori, proprio per inculcargli quella che è la mentalità che è riuscita a inculcare nella testa dei giocatori della Juventus in questi ultimi 3 anni. In questo momento vederlo in una nazionale o nella stessa nazionale italiana e non avendo quel contatto con i ragazzi, insomma, vedo una cosa più difficile che possa accadere. Scusatemi, Vaciago e Pardo, ma queste stesse cose non si dicevano anche a proposito di Sacchi? Sì. Ma infatti, sì, tutto va bene, è chiaro che probabilmente se venisse chiesto a Conte e magari anche di Lippi, Pierluigi, una squadra direbbe l'Arsenal o il Manchester United, potesse scegliere lui, però questo, il fatto che lui sia portato per allenare i club non vuol dire che non possa allenare l'Arsenale. In un momento come questo tu hai una clamorosa serie di circostanze che si sposano, una squadra che è uscita a pezzi da questo mondiale, il bisogno di un allenatore forte, un allenatore forte che è improvvisamente fermo, secondo me se non lo chiami, poi fagli 2 anni di contratto, non gliene fare 4, anche perché abbiamo visto quando poi firmi i contratti troppo lunghi e poi le cose vanno male, poi comunque c'è chi ha comunque il buon gusto di dimettersi, ma voglio dire, perché no? Poi che Conte sia uno che in futuro sogna a Manchester piuttosto che Madrid, il problema è che devono anche volerlo, perché questo discorso l'abbiamo fatto molte volte quando Conte era in bilico in tempi diversi per la panchina della Juventus, prima di quel famoso tweet dicevamo: oh, questo sembra aver voglia di andare via, però conta le panchine, United occupata, Real Madrid manca a dirlo, Barcellona prende Luis Enrique, quali altre panchine, grandi panchine europee restano libere? Chissà con un anno in meno di contratto come sarebbe andato a finire. Guido. Però vabbè, questa è un'altra storia. Però parliamo, posso chiedere a Guido, sì, colui che ha il polso dei tifosi. A me sembra che al di là del dramma chiaramente sportivo, poi il la Juve deve avere rispetto anche e fiducia, perché insomma Conte l'hanno scelto Agnelli, Marotta, Nedved e Paratici, gli acquisti di questi anni li hanno fatti questi qui. Cioè, non è che siamo di fronte, non è che è finito il mondo, no? Stiamo parlando di quelli che hanno vinto tutto in Italia, ha vinto Conte ma hanno vinto anche loro. Allora perché questo panico improvviso? Io credo che il panico improvviso sia non tanto per la scelta di Allegri, che comunque è un personaggio che era antipatico al popolo juventino e lo sta dimostrando il popolo juventino questa antipatia. Credo che il panico sia per l'assenza di Conte. Hanno vinto tutti, io sono d'accordissimo con te, ma l'impressione è che abbia vinto soprattutto Conte per il grande carisma della persona, per il grande carisma dell'allenatore, per i grandi meriti che ha indubbiamente avuto, ma anche per il fatto che Conte è comunque sempre stato l'uomo sul palcoscenico, l'uomo sulla ribalta. Agnelli è un presidente che non ama tanto comunicare, che rimane sempre in secondo piano, Marotta anche sceglie spesso il basso profilo, quindi poi alla fine Conte è stato il catalizzatore di tutta l'attenzione. La sua storia è una storia in particolare, capitano della Juventus, di una Juventus estremamente vincente, poi allenatore, è logico che i tifosi individuano in lui la Juventus e con le sue dimissioni le vivono come le dimissioni della Juventus. Io credo che il panico sia soprattutto per questo. La scelta di Allegri è una scelta secondo me giusta, coraggiosa, proprio per il fatto che Marotta, Agnelli, Paratici e Nedved sapevano perfettamente di portare a casa un personaggio che negli ultimi tempi era risultato antipatico ai tifosi della Juve. Io spero che i tifosi della Juve non continuino a criticare Allegri per partito preso, perché adesso mi sembra che le critiche fatte da Allegri siano forse eccessive, soprattutto se si va a criticare Allegri per certe dichiarazioni fatte quando era sulla panchina del Milan, perché ognuno fa il gioco delle parti. Ma ti ricordi Capello, Guido, ti ricordi Capello, Mancini non ha fatto la stessa cosa, ma dai, no, questo è normale gioco delle parti, Guido, e quindi da questo punto di vista i tifosi juventini se ne faranno una ragione. È chiaro che adesso le critiche sono a prioristiche per il passato di Allegri, ma se è stato metabolizzato uno come Capello, che aveva detto cose anche più pesanti e anche diverse, io credo non ci saranno enormi problemi. Ringrazio Guido Vacciaghi di Tutto Sport, mi tengo ovviamente per Luigi Pardo, il mio compagno, fino a dopo la borsa, e cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Mi piace che non ci sia più un mister importante come Antonio Conte, un grande uomo di sport, gli auguro tanta fortuna, perché sicuramente una persona che ha dato tanto al calcio, e peccato non vederlo più. Speriamo di rivederlo presto. Grazie, arrivederci. Number one. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. sentito Ghirardi e poi ad interromperlo era Ferrero, proprio lui, nuovo presidente della Sampdoria, abbastanza eccentrico, number one. Ci divertiremo, l'impressione, ragazzi. Pierluigi, parliamo con gli ascoltatori? Sì, ma i sentiti bomboni, quello che era piccinini. I piccinini, i bomboni non mancano mai. Devi certo sapere che nella redazione Mediaset bomboni è proprio una specie di cercalare. C'è Matteo Dotto che dice sempre, bomboni. Dammi un bel pezzo, bei bomboni. E quindi bomboni e bufera, bufero, buferato sono, diciamo, le due parole. Le parole chiave, diciamo. Intercalare, lo salutiamo. Intercalare. Salutiamo il signor Dotto, no? Più grande conoscitore di calcio argentino che abbia mai conosciuto. Hai già visto l'Argentina che io sono listato di lutto ancora adesso. Ah, ti ho pensato. Ma poi, a parte gli insulti triviali, ne ho ricevuti una tonnellata di quelli triviali che puoi immaginare, poi ce ne sono andati. Ma te è passata quella pannocchia che t'hai preso sabato? Se no, non m'è passata, va bene, ma non abbiamo fretta, andremo a vincere a Mosca, c'è sì problema, tra 4 anni, ok? Va anche bene, anche perché Genta, diciamo che insomma, trionfa, va bene, vai, andiamo. Io comincio con una signora, va bene, vai. Agnese da Padova, buongiorno. Buongiorno e grazie della convocazione. Grazie a lei. Voi avete trovato la tifosa juventina d'accordo con la nomina di Allegri, quindi la prima è d'accordo. Ecco, allora vorrei dire questo. Innanzitutto rilevo che c'è un difetto proprio logico della tifoseria juventina. Io sono molto juventina, geneticamente juventina, a prendersela con chi arriva e con chi viene chiamato piuttosto che con chi deliberatamente se ne va. Mm. E quindi questo è sbagliato. Anche negare i meriti che sono oggettivi di Allegri è un altro elemento di ottusità, perché ci sono, e oltretutto io valorizzerei una circostanza, e cioè la rivalsa che ha Allegri di voler far bene in una squadra come la Juve dopo la chiusura con il Milan, perché il fatto che sia intervenuta anche la, come la chiama lei, dottor Genta, Lady Barbara, no? Uh-huh. È un po' offensivo per un allenatore così scafato di una certa eleganza come Allegri, no? No, ma sarà, signora Agnese, sarà motivatissimo indubbiamente Allegri. Che ha tutto da perdere, Pier. Ma no, dipende. Ha tutto da perdere. Dipende. È chiaro che fare meglio in Italia, fare meglio di Conte significa fare più di 102 punti, è praticamente impossibile. Esatto. In Europa, ad esempio, Allegri ha un bilancio negli ultimi anni, anche con una squadra non brillantissima, interessante. Allegri è andato comunque vicino 2 anni fa ad eliminare il Barcellona, 2-0 all'andata e quel famoso palo di Niang al ritorno. Insomma, io veramente far passare Allegri come uno scemo proprio non ce la posso fare, perché mi sembra veramente una cosa stupida. Tanto sul fatto di Conte che non mi sembra un tradimento. Comunque, un allenatore che all'inizio dell'anno, è vero, sì, sarebbe stato meglio a maggio, ma all'inizio dell'anno, comunque, di fronte a una situazione che evidentemente non gli piaceva, a un accordo che non c'era con la società, se ne va via, rinuncia ai soldi, stringe la mano, poi lo sappiamo che qualcosa deve essere successo, è ovvio che il momento migliore dei rapporti tra la Juve e Conte non è questo, è stato nel passato, però comunque con fair play da una parte e dall'altra. Sì, ma non discuto i tempi, sai Pier, discuto i tempi, perché non possono dirmi ok, non mi avete preso Cuadrado e Alexis Sanchez e allora io vado via, perché credo che questo sia pretestuoso e non riesco a capire perché, ma davvero non riesco a capirlo, perché questo tipo di ragionamento, che è del tutto logico, rispettabile e tutto quello che vuoi, non sia stato fatto 2 mesi fa quando c'era, perché forse 2 mesi fa ci si è lasciati con la cosa di io ti cambierò. Da una parte e dall'altra, dico, oppure magari cambierò io idea, cioè io faccio fatica a vedere questa storia come così antagonistica. È chiaro che qualcosa è successo, perché se no stavano insieme, ed è chiaro pure che l'incertezza esiste, cioè voglio dire, faccio un esempio televisivo: Floris lascia Rai 3 di Pianello, è chiaro che c'è un punto interrogativo su chi lo sostituirà, perché era uno che si sapeva che faceva bene, e quindi il punto interrogativo c'è. Uh-huh. Sono tardito sto paragone, non lo so. Uh-huh. Però poi magari arriverà un altro che farà altrettanto bene, cioè non è fa parte dell'incertezza. È chiaro che uno che ha vinto gli ultimi 3 anni va via, e la notizia è clamorosa. Certo. Poi la tempistica è clamorosa, la tempistica, però stiamo la tempistica, parlando di una società che, se ce n'è una in Italia che ha le spalle larghe, che ha dei dirigenti che in questi anni hanno dimostrato di essere all'altezza, è questa. Per cui insomma, sicuramente io non dico che il tifoso della Juve debba essere contento, però io credo che il tifoso della Juve debba essere consapevole che si è consumato un divorzio. Certo. E alla fine forse è meglio che sia stato così piuttosto che trascinare la situazione, certo, che trascinare la situazione con reciproca sfiducia fino al momento in cui fatalmente le cose non sarebbero andate bene, perché questo credo fosse fatale e Conte l'ha capito prima di tutti. Chi arriva alla Juventus adesso? No, ha tenuto tempo di darsela. Lo che pasa è che al final ya no, al final sì che stava fuori del juego, però ha tenuto tempo di darsela antes. ¡Ojo! Pierre, abbiamo deciso di chiamare Filippo Maria Ricci, che è in partenza per vacanze come al solito molto cool, sai? Grande, grande Filippone, come stai? Sono in Sardegna, appena atterrato, eh? Hai capito. Infatti mi sembra che, vi ho sentito per mezz'ora, adesso che mi dovete chiamare mi sembra che più o meno la connessione sta per andare via, è un classico, però vabbè. È il signor Piantanita che va a sabotare i telefoni. No, è un classico dell'erotismo, figurati, lavorando con Pardo io sono, so tutto di comunicazioni, telecomunicazioni, telefoni, io so qualunque cosa. Ho anche un nuovo lavoro. Va bene. Sì. Zero cadute oggi. Adesso zero cadute, sei fantastico. Sei fantastico. Bellissimo Paolo. Questo, zero cadute. Grazie, va bene, speriamo. Filippo, come Morata arriva alla Juventus, ma a fare cosa? Bella domanda. Si potrebbe fare anche a Fernando Llorente questa domanda. Non lo so cosa viene a fare. E soprattutto io in questi giorni che pensavo a questa storia. Io dico che sei una persona che fa giornalista professionista, altissimi livelli, molto bene, poi non riesce a dotarsi di un telefono all'altezza, allora di che stiamo parlando? Cioè, voglio dire, adesso non voglio parlare bene di me, ma insomma, è mai caduta la linea con me, senza, sinceramente. No, allora ci sono gli strumenti tecnologici mai nella storia, ma io Filippo lo perdono perché è in vacanza in Sardegna, che vuoi? Lo perdono anch'io. Insomma, che deve fare Morata? Che va a fare Morata la Juventus? Me lo spieghi? È l'attaccante, era fare l'attaccante. Gli mancava qualcuno. Quagliarella oggi è andato al Torino ufficiale, vabbè. A babbo c'è morto, quindi. Colpo, posso aprire questa parentesi? Quagliarella a Torino, secondo me è un grande colpo. La sensazione è che. Già anche lì, no? Non devi fare il paragone con Immobile, perché quello che ha fatto Immobile l'anno scorso è strepitoso. Però Quagliarella, sai che io ho una passione, nel senso che secondo me è un giocatore che forse ha perso anche un anno e mezzo. E a gennaio dell'anno scorso doveva assolutamente partire, forse avrebbe avuto anche una chance nazionale. È uno che si è, insomma, non è che si è autovettizzato lui, però è rimasto ai margini ed è rimasto imprigionato in una situazione oggettivamente difficile. Anche lì non è che puoi dare torto a Conte, lui ha fatto quello che ha fatto con Tevez e Llorente, ci sta. Però Quagliarella è uno che secondo me gioca titolare in 16-17 squadre su 20 in Italia. Sì. E Torino, tra l'altro, per lui è un ritorno a casa. Ritorno a casa, poi mi sembra anche un giocatore adatto per quella squadra lì. Esatto. Allora, è tornato Filippo Maria Ricci, giusto per sbeffeggiarti. Io vi porto entrambi oltre le colonne d'Ercole del traffico e parliamo altri 3 minuti insieme di che ci va a fare Morata e parliamo insieme di papà Fabrizio e mamma Donatella. A dopo. Giocare una squadra come Madrid non è facile per nessuno, no? Nemmeno per un giocatore giovane che siete della cantera, no? Vediamo cosa succede. Questo è calciomercato ancora, sono cose di Marotta, la società, ancora non mi ha chiamato. Non posso dirti un'altra cosa. Convocati. Allora, mentre Piantanita dalla redazione mi fa notare che Kroos, presentato dal Real Madrid, ha scelto il numero 8, number 8, gli ultimi numeri 8 del Real Madrid non benissimo: Julio Baptista, Gago, Emerson, Kakà, questo è un rapido elenco. Pierluigi, hai sentito di papà Fabrizio e mamma Donatella? A proposito, la domanda va girata subito a Filippo, perché Filippo, per chi non lo sapesse, è family man, c'è altri blazer, ha 3 figli, uno dei quali Gregorio è ormai capo redattore della Gazzetta, nel senso che la legge sì, praticamente come tutti noi, e quindi voglio proprio il parere del padre. Aspetta, parere del padre nel momento in cui arriva, perché sai, ti ho detto che in vacanza in Sardegna. No, avevamo preso, poi è caduto, è cascato, sai, queste storie di telefoni. Ricci ha una percentuale, Ricci è veramente il capocannoniere. No, ma che stai dicendo? Figli della nostra generazione ormai, questa generazione, nella generazione Cruciani, figli sono una cosa... Questa generazione di anime perse, questa generazione di anime perse, sì. Straordinario. Nel frattempo, mentre lo aspettiamo e proviamo a capire, c'è Paolo da Milano che saluto. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno signor Genta. Dica. Ma io sono favorevole all'abbandono di Conte. Le spiego perché. Secondo me Allegri non è un buon allenatore. Poi per fare meglio di Conte in Italia è semplicissimo, basta vincere uno scudetto e la Coppa Italia, che basta. Conte l'ha sempre snobbata, no, sì. Perché lui aveva solo delle fisse, scudetto e basta, sì. Coppa Italia no, Europa League no, cioè a non fare una finale di Europa League in casa a Torino è stata una cosa vergognosa per colpa di Conte, perché oltre a dare i meriti bisogna anche fare le critiche al allenatore. Questo è vero. Cioè, non esiste che un allenatore a Sassuolo, no, una cosa solo, a Sassuolo, se lei si ricorda, gioca con la formazione titolare a lunedì e una semifinale il giovedì. Cioè, una cosa incredibile. Solo così poteva fare una cosa così. Grazie, buongiorno. Allora Paolo, su queste cose io e Pardo le abbiamo già dette e su questo siamo tutti d'accordo, cioè Conte ha gestito non bene, anzi ha gestito malissimo questa campagna europea della Juventus, sì, in Champions League prima, non è uscita apposta, Pier, però è una questione anche di impulsi che tu dai alla squadra. E trovo anche che la principale vittima di tutto questo sia stato proprio lui. Perché se, come mi risulta, comunque l'ambizione di Conte non è quella di andare a allenare Milan o l'Inter, ma è quella di andare a allenare una grande squadra europea, un'ambizione secondo me legittima, visto quello che ha dimostrato in Italia in questi anni, quello che gli è mancato sarà proprio la legittimazione europea. Magari vincendo l'Europa League, manca la controprova, magari sarebbe arrivata mentre mi stavo ammazzando sullo scoglio, è tutto a posto, È tutto a posto che è tornato Filippo Maria Ricci. Cosa volevi chiedere a Filippo Maria Ricci? Ricci, tu che sei family man, che hai fatto già con Greg, che è capo redattore della Gazzetta, stavo un attimo facendo il tuo biografo, questa storia dei signori Scuffet che bloccano il trasferimento del figlio all'Atletico Madrid, come la vedi? Da parte di come la vede dal fondo del mare, come la vuoi che sta facendo il bagno, è in immersione, Pier, dai. Ricci. Senti Pier, ci sentiamo domani, facciamo così. Ma no, se fai senti, dai, già adesso sono ritorto da guarda che ho rischiato la vita veramente, Hai presente il muschio bagnato quando sì. Ti voli. Sì. No, andiamo avanti che andiamo. Va bene, Claudio da Varese. C'è Claudio sì, da Varese. Pronto. Buongiorno, dica. Sì, buongiorno, io momentaneamente sono a Varese ma sono di Torino, sì. Juventino dalla nascita, ma a me sinceramente che ci sia Allegri forse può anche essere positivo, perché vedo in Antonio Conte una persona che arriva stanca da 3 anni faticosissimi, con forse meno stimoli di quando è arrivato la Juve, perché poi fondamentalmente quando è arrivato la Juve era poco conosciuto. E se devo essere anche sincero, mi sembra anche poco riconoscente nei confronti della società che ha creduto in lui quando era un allenatore che arrivava dalla Serie B poco più. Ma io su un punto sono sempre stato convinto, cioè allenatori come Conte sono molto ripetitivo, durano grosso modo 3 stagioni, perché ti chiedono qualunque cosa, tu sei disposto, come Mourinho d'altra parte, come Sacchi, ti chiedono qualunque tipo di sacrificio, tu sei disposto a fare questi sacrifici, poi è un rapporto che si consuma, quindi Conte voleva una squadra totalmente nuova, non era possibile consegnargli una squadra totalmente nuova, questo si sapeva già alla fine del campionato, ciò che non mi torna è esclusivamente questo lasso di tempo intercorso tra i due atti di una vicenda già scritta. Senti però Pierluigi, Conte, intanto la Roma va avanti, il tassametro corre. E tra l'altro, insomma, se vogliamo essere maliziosi, quello che ha detto Turbe oggi potrebbe essere stato Pinocchio sull'interessamento della Juve, però magari invece è un'ulteriore conferma, ma ripeto, di un processo legittimo, perché la Juve ha pienamente il diritto, con i dirigenti che ha, con i successi che ha avuto, anche di farci un mercato sereno, cioè di non dover ogni anno travolgere e investire. Cioè, è un ragionamento che ci sta completamente, quello di consolidare la squadra. Insomma, il sospetto che ci possa essere stato, alla fine, anche sui curve, meno trattativa di quello che è sembrato, a parte che poi i curve ci sono voci contrastanti, perché c'è anche chi dice che Conte non volesse i curve, volesse Quadrado. Su Quadrado devo dire la verità, non era una trattativa facile. Insomma, i rapporti tra Fiorentina e Juve sono complicati, non certo. Penso, francamente, di biasimare più di tanto, a parte che Quadrado lo voleva pure la Roma e non è arrivato, al momento non si è mosso, quindi non è che la Juve ha perso una trattativa diretta con un'altra società per Quadrado. E Quadrado al momento non si è mosso, vedremo se andrà al Barcellona, vedremo se rimarrà a Firenze, però insomma, non me la sento francamente di prendermela con Paratici, con Agnelli o con Barotta per una cosa del genere. No, vabbè, è chiaro. Era quello più di tutte. La Roma sta facendo grandi cose. Insomma, sono le uniche due società italiane che stanno facendo mercato, e tutto considerato, secondo me le distanze si stanno piano piano assottigliando, tutto considerato, l'addio di quell'allenatore, il mercato della Roma, eccetera. Che succede? Certo, c'è Nibali in maglia gialla, sulle montagne. Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Tappa numero 13. Chamrous, si arriva là sopra. Esatto. Quindi? Quindi il nostro ragazzo temperature elevate in tutti i sensi, 33 gradi, l'asfalto che trasuda calore, tantissima gente, tanto entusiasmo, e lui è tranquillo. Stamattina era tranquillo come se dovesse partecipare al circuito della Tinca. È incredibile. Al Gran Premio della Tinca, sì. Secondo me dovrebbero dirgli che sta correndo il Tour de France. No. Eppure ha una maglia sulle spalle. Non svegliate il ragazzo. No. Pierluigi, stai guardando il Tour? Sto guardando il Tour, ci capisco pochissimo, vorrei fare una domanda abbastanza completa. Vai, lo vince? Vai, lo vince. Che probabilità di vincerlo? Non ho capito, scusa, cioè, Piera. Domandava quante probabilità ha di vincere il Tour? Lo so che qua poi ci sono le scaramanzie, le cose. Perché c'è un ritorno, Carlo? Chiedeva una domanda difficilissima: c'è possibilità di vincerlo? A parte scaramanzie, eccetera, eccetera. Allora, ti rispondo così: c'è possibilità elevatissime, tocchiamo ferro. Nello scontro uno contro uno, al momento non c'è nessuno che sta pedalando bene come Vincenzo Nibali. Purtroppo, nel ciclismo esistono tante dinamiche, come nello sport, non solo nel ciclismo, di squadre e corridori che perso te lo possono far perdere, cioè vanno all'attacco per far saltare tutto e provare a vedere a rimescolare le carte. Certo, su una salita, se si trova con Valverde, con Ricci Porte, con Bardet, con Pinot, al momento Nibali è chiaramente e lungamente il più forte. Però se lo attaccano in 3, 4, 5, uno dopo l'altro, magari loro, 4 di loro non vince il Tour, ma tutte e 5 possono far perdere il Tour a Nibali. Diciamo che ha l'occasione della vita, la situazione si è messa molto bene. E gli consigliamo buone pubbliche relazioni con tutti questi rivali. Grande amicizia, voglio bravo. Dire. Bravo, bravo. Piera, non sarai tecnico, però hai toccato un punto molto importante che nel ciclismo esiste, che sono esattamente il gioco delle alleanze. Un gioco che a questo punto l'Astana deve fare, che è la squadra kazaka di Vincenzo Nibali, e quindi avere delle buone relazioni in gruppo. Avere qualche squadra, tipo la Katiuscia di Joaquin Rodriguez, per citarne una, che ti possono dare una mano. Quindi cuore, gambe e diplomazia. E proviamo a portare a casa il Tour de France. Adesso io vado a cercarmi una tele, Pardo pure, stagiaria al Tour e poi ce lo racconta. Ragazzi, vi saluto, ci sentiamo domani. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Abbiamo finito? Devo dire qualcos'altro? No. Allora, niente, sentiamo lunedì, nessun problema. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti regia, Claudia Schiattone in redazione. Dopo Giare del 2 è lunedì, mi raccomando, qui tutti convocati.